giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. C'è chi nasce sbirro, io sono nato ladro. Parola di Renato Valanzasca, boss del quartiere della Comasina, famoso per aver seminato terrore durante gli anni 70. Parola di un personaggio complesso e contraddittorio che ha collezionato 4 ergastoli, 260 anni di detenzione per 4 omicidi. Nato nel capoluogo lombardo il giorno di San Valentino, 14 febbraio 1950, Valanzasca è un capetto rispettato della Comasina, quartiere alle porte di Milano. In breve tempo, grazie a rapine e furti, è pieno di soldi tanto da permettersi un alto tenore di vita e una casa prestigiosa. Achille Serra, ora prefetto di Roma, negli anni 70 guidava la squadra mobile di Milano. Milano toccò con mano il fenomeno mafioso. Gerlando Alberti, Luciano Viggio, nascevano finanziarie come funghi in quegli anni, su cui si lavorò molto. Molte di queste risultarono legate a cosche mafiose, ma quello che più colpì la gente negli anni 70 furono alcune bande locali, o quasi locali. Penso a Renato Valanzasca. Il 14 febbraio 1972 Valanzasca viene arrestato dopo una rapina ad un supermercato. Resta in carcere per 4 anni e mezzo e non è certamente un detenuto modello. Partecipa cioè a numerose rivolte e la sua ossessione resta comunque l'evasione clamorosa. Non trovando altri mezzi si procura un'epatite e viene ricoverato in ospedale. Il 28 luglio 1976, grazie alla complicità di un poliziotto, fugge dal penitenziario. Di nuovo libero torna alla vecchia vita, la scia di sangue che si porta dietro è impressionante. Prima l'omicidio di un poliziotto ad un posto di blocco di Montecatini, poi cadono un impiegato di banca, un medico, un vigile, 3 poliziotti. Achille Serra conosce bene Renato Valanzasca, più volte nel corso del tempo tenta di incastrarlo. Per loro è una sorta di caccia del gatto al topo. Valanzasca era certamente un criminale che tolse la vita a tanta gente, con le sue mani, attraverso la sua organizzazione. Ma era contemporaneamente un uomo intelligente, coraggioso, un leader. Io ebbi il primo contatto con lui nel 1972, se non ricordo male, lo sospettammo di una rapina, andammo a casa ma non trovammo assolutamente nulla che potesse provare questa rapina nel supermercato. E allora lui, già allora molto spavaldo, si tolse il Rolex d'oro, sfidò il giovane funzionario che ero io, disse: è tuo se riesci a incastrarmi. Beh, proprio in quel momento una colonna della squadra mobile di Milano di allora, che era il maresciallo Scuri, trovò in cucina dei pezzetti di carta che, raggruppati e messi in ordine, costituivano l'elenco delle buste paga del supermercato di via Monterosso. Stanco delle rapine, Valanzasca si dedica ai sequestri di persona. Il 13 dicembre 1976 cade nella rete Emanuela Trapani. Viene liberata il 22 gennaio del 77 dietro pagamento di 1 miliardo di lire. Valanzasca, inseguito dalle forze di polizia, uccide 2 agenti ad un posto di blocco di Dalmine. Poco dopo la sua liberazione, Emanuela Trapani descrive così il suo rapitore. Che tipo è Valanzasca? Beh, tipo, io lo ritengo anche un incosciente, un duro, una persona che non ha paura di nessuno, come dice lui. Poi per me non so se è vero o no, comunque lui sostiene che ha una paura di nessuno. Sono gli anni in cui a Milano scoppia la faida criminale tra Francis Turatello e Renato Valanzasca. Se li ricorda bene quei tempi, Achille Serra. Turatello lo avvicino a Valanzasca, anche se ritengo che sia di uno spessore intellettivo superiore e soprattutto un capo a livello più ampio rispetto all'organizzazione locale come può essere quella della Comasina. È un leader, fratello, è un leader che viene dal contatto con le grandi famiglie criminali. È uno che ha impostato per anni la sua legge. Il 15 febbraio 1977, stanco e ferito, viene nuovamente arrestato nel suo covo. Mi dici perché sei venuto a Roma? Mi piace la città, non mi credi? Sono innamoratissimo di Roma. La ragazza chi è? La ragazza che stava qui? C'era una ragazza, non me ne ero accorto. Il 14 luglio 1979 nel carcere milanese di San Vittore sposa Giuliana Brusa. Premessa sentimentale alla sua seconda e mancata evasione, avvenuta il 28 aprile 1980. La dinamica della tentata fuga è a dir poco rocambolesca. Pare, cioè, che durante l'ora d'aria siano comparse tre pistole che consentono ai detenuti di prendere in ostaggio un brigadiere. Inizia una sparatoria che si trasferisce poi nelle strade e perfino nei tunnel della metropolitana. Palanzasca viene ferito, altri 9 subito ritracciati. Alcuni detenuti riescono a darsi però la macchia. Il 20 marzo 1981 viene rinchiuso a Novara. Renato Palanzasca è autore di un atto efferato. Durante una rivolta scozza un ragazzo, per lui si aprono le porte del carcere duro. Ma il boss della Comasina è un uomo pieno di risorse e il 18 luglio 1987 riesce a scappare attraverso un oblò dal traghetto Flaminia che sotto scorta lo sta portando nel carcere speciale dell'Asinara, in Sardegna. Poi si reca a piedi da Genova a Milano e a quel punto decide di farsi intervistare da Radio Popolare. Pronto? Pronto? Come si chiama? Palanzasca Renato. Quanti anni ha? 27. La sua banda sta incutendo terrore nella città di Milano. La gente ha paura e dice che siete una banda di drogati. Ma è vero che lei può girare impunemente per Milano? Diciamo che sì, sono dovuto, cioè c'è un qualcosa da fare che mi sembra che oltre la mia presenza entro in Milano e riesco. Si sente isolato? Nel frattempo si taglia i baffi, schiarisce i capelli, si concede una breve vacanza a Grado. Il 7 agosto è fermato da un posto di blocco mentre sta cercando di raggiungere Trieste. È armato, ma non oppone resistenza. Una volta tornato in carcere, divorzia dalla moglie Giuliana e tenta ancora l'evasione, come il 31 dicembre 1995, a Nuoro. Colleziona ammiratrici, non solo quelle che leggono le sue gesta sui giornali popolari. Una sua tutrice, forse innamorata di lui, viene accusata di falsa testimonianza, mentre la sua avvocatessa, con la quale riesce a stringere un rapporto profondo, viene accusata di averlo aiutato nel tentativo di fuga a Nuoro. Nel 1999 esce la sua biografia, scritta in collaborazione con il giornalista del quotidiano La Repubblica, Carlo Borini. Dal 2003 Renato Palanzasca è recluso nel carcere speciale di Voghera come vigilato speciale. Nel maggio 2005, dopo aver usufruito di un permesso speciale di 3 ore per incontrare l'anziana madre, 88enne, residente a Milano, Palanzasca formalizza la richiesta di grazia e invia una lettera al ministro di Grazia e Giustizia e al magistrato di sorveglianza di Pavia. Per Carlo Bonini, Palanzasca è rinchiuso oggi 2 volte. Un uomo ormai prigioniero del suo mito, oltre che della galera a cui è stato condannato, e che questa doppia prigionia gli riservi un presente e un futuro probabilmente molto diverso da quello che avrebbe avuto se fosse stato un bandito un po' meno famoso e se fosse stato un bandito che avesse coltivato in modo diverso il suo mito. Quello che voglio dire è che oggi Palanzasca è forse l'unico dei grandi banditi dell'Italia degli anni 70 che ancora non solo sta scontando la sua pena in carcere, ma anche che non ha goduto di nessuno dei benefici, dico pure altri personaggi di spicco di quel tempo hanno goduto. Oggi Vallanzasca continua a scontare la sua pena in un regime praticamente di isolamento totale, soltanto in tempi recentissimi ha ottenuto 2 permessi per andare a trovare questa anziana madre ammalata. Beh, insomma, continua ad essere detenuto in bracci di massima sicurezza, per questo dico un uomo 2 volte prigioniero. E oggi dal carcere Vallanzasca manda a dire: gli omicidi non li puoi rimuovere, non mi interessa nemmeno provarci. A distanza di anni solo il carnefice e i parenti si ricordano, ed è giusto così. Io però non saprei con chi faccia presentarmi di fronte ad un ragazzo a cui ho ucciso il padre. L'unico conto che non ho saldato è proprio nei riguardi dei familiari. Solo loro vantano un credito nei miei confronti. Gli vorrei dare l'opportunità di sputarmi in faccia. E quando qualcuno prova a chiedergli cosa vorrebbe che sia scritto sulla sua tomba, il bel René non ha dubbi. Renato Vallanzasca ha vissuto male, ma almeno ha vissuto.